Thank you, Lord. Fa pioggere, mannaggia, che giornale, che deve la terra. Daniele sta in Sicilia, perché sta sempre buono, vediamo. Ha detto piove giù. Ieri no. Ho tentato la cosa, non facevo per me. Ma c'è anche delle pareti delle procedure ai beni? Sì? Delle procedure ai beni delle strade? Delle procedure delle strade? Non c'è un attimo, la si può parlare. Una settimana per arrivare. Una settimana? Ma che ti sei fatto una settimana? Lo devo fare qua per settimana. Non funziona. Non funziona. Quella che... Questa la macchina sta in panna, non so che funziona, non funziona. Questa non la fai lì? Io questa settimana ce l'ho portata ieri. Io il gatto di Daniele ci ho fatto a mano. A mano la fai? Anche a me di muro, qui, non c'è più. Quindi c'è il muro che fa, c'è la persona che sta portando questo che fa. Non c'è più, non c'è più.